arrivano le donnette che sono sempre perfette, si attaccano ad un uomo come fossero cagnette, non hanno un'intenzione, non hanno un interesse, sono spesse volentieri bulimi che represse. Ma che liberazione, ma che rivoluzione, ballerine di fila che aspetta l'audizione, il sesso imprigionato dal libero mercato, ogni corpo un'attacca e via misurare. È primavera. Ma insomma, ragazzette, dammi se un po' da fascia, avemo culo e tette e testa per pensare. Però volevo, aspetta, vedi la pezza, ecco qua. Testa per pensare, scusate, che pure lì difetti sono da valorizzare. Altro che quelle della pubblicità, ci piace far l'amore e puro de magnà. Altro che chiesa, marito e società, volemo una vita de curiosità e questa è la strada. Per me la possibilità e allora ciao a tutti e tutti, Femministenzia, martedì 4 febbraio. Iniziamo subito a parlare della passeggiata che c'è stata questa domenica 2 febbraio con partenza dall'occupazione delle Canne Sciolte in via Ostiense 137, che ha attraversato tutto il quartiere di intorno a Via Ostiense. Leggiamo subito il comunicato che ha seguito alla passeggiata. Quindi racconto della passeggiata di domenica e prossimo appuntamento. La pioggia non ci ferma, riprendiamoci le strade. Prossima assemblea pubblica 10 febbraio ore 19. La pioggia che blocca Roma. La pioggia che blocca Roma da giorni non ci ha fermate. Domenica sera, insieme a tante donne, non solo, del quartiere e della città, siamo scese in strada per la passeggiata collettiva contro la violenza di genere e omofobia, per riprenderci gli spazi del quartiere nei quali ci si sente meno sicure quando si è da sole, soprattutto quando fuori è buio. Armate di fischietti, ombrelli colorati e la musica della murga, abbiamo attraversato le strade e segnato il nostro passaggio con scritte, striscioni e interventi al megafono. Tutte insieme siamo passate nelle strade della movida, della socialità mercificata e posticcia, nelle quali i ruoli maschio femmina sono radicalizzati e messi in vetrina e dove spesso veniamo guardate, toccate, importunate contro la nostra volontà. Abbiamo percorso le strade più buie, i passaggi della metro coperti e nascosti, nei quali è più difficile sentirci se urliamo. Siamo passate davanti alle caserme, ribadendo che nessuna militarizzazione e nessuna presenza di tutori armati ci dà sicurezza e libertà, ma che la libertà di stare in strada come vogliamo ce la dà solo l'autodeterminazione e sicuramente non luoghi come le caserme, dove gli uomini comandano e stupratori in divisa si nascondono. Siamo passate sotto i palazzi e le abitazioni, dalle quali in tante e tante si sono affacciate al nostro passaggio per salutarci o ci hanno raggiunto in strada. Abbiamo lasciato il segno della nostra passeggiata davanti alle chiese, simbolo del patriarcato, che ci vuole sempre vittime da tutelare e non soggetti forti che possono decidere da soli. E abbiamo lasciato dei ricordini in solidarietà delle sorelle spagnole, alle quali, con una legge infame di stampo cattolico autoritario, si sta cercando di strappare il diritto a decidere del proprio corpo e ad abortire, per ribadire che io decido. Abbiamo preso parola contro i CIE, lager della democrazia, nelle quali le donne e gli uomini vengono rinchiusi e deportati, luoghi di repressione razzista e classista. Abbiamo denunciato quelle organizzazioni che dietro una facciata di umanità fanno business sulle migranti. Abbiamo incontrato le altre realtà del quartiere, complici delle nostre lotte, le sorelle migranti dell'occupazione di Porto Fluviale e le compagne dello studentato occupato Alexis, che ci hanno offerto riparo dalla pioggia con tè, biscotti e vino e hanno costruito con noi il percorso della passeggiata. Insieme a tutto questo abbiamo fatto anche una piccola assemblea nella quale abbiamo deciso di ridare appuntamento per un'altra passeggiata a febbraio, per essere ancora di più, per abbracciare altre strade, altre sorelle, per riprenderci ancora i nostri spazi come vogliamo noi, per stare libere nelle strade, magari stavolta con il cielo sereno. Diamo appuntamento a tutte e tutti il 10 febbraio alle 19 in via Ostiense 137 per l'assemblea pubblica preparatoria della prossima passeggiata collettiva, perché le strade sicure le fanno le donne che le attraversano e non i militari. Riprendiamoci le strade è l'hashtag. Ma adesso mandiamo direttamente un contributo che è stato registrato nella giornata durante la passeggiata collettiva di domenica 2. Buongiorno a tutte e tutti. Noi siamo delle Cagne Sciolte, un collettivo di donne queer che ha occupato uno spazio il 14 dicembre a Via Ostiense 137, con l'obiettivo appunto di aprire un nuovo spazio, liberare un nuovo spazio nella città che sia uno spazio partecipato, uno spazio di autonomia per le donne e soprattutto uno spazio libero da qualsiasi tipo di violenza. Chiaramente il nostro discorso verte proprio sulla violenza contro le donne e sulla violenza di genere. Ad un certo punto abbiamo deciso di provare a interloquire con le donne del territorio, con i collettivi politici che esistono già prima di noi, e le singole donne che comunque si vivono nel territorio. Abbiamo deciso di proporre un tema, diciamo, abbastanza caldo, difficile da affrontare, che è quello della violenza, diciamo, in strada, non solo sulle donne. Si potrebbe generalizzare utilizzando appunto la parola genere, quindi la violenza di genere. Questo è comunque un discorso che stiamo continuando a costruire insieme agli altri e alle altre. E abbiamo deciso di attraversare le strade del nostro territorio, quindi la parte di San Paolo e Garbatella, provando a attraversare tutti quei luoghi che non si percepiscono come sicuri, partendo dalle nostre necessità, partendo da quelle che sono le nostre paure, quelle che sono le nostre indecisioni nello spazio che dovrebbe essere uno spazio pubblico, uno spazio calpestabile da tutte e da tutti. Abbiamo deciso di riprenderlo in maniera collettiva. E questa è proprio diciamo, l'idea di fare una passeggiata collettiva all'interno del quartiere. Questa passeggiata si è data grazie a due assemblee che si sono svolte nel nostro spazio, dalle Cagne Sciolte. Sono state entrambe molto partecipate, molto interessanti a livello di dibattito, anche molto variegato per la partecipazione di donne, ma non solo, di queer, di persone, diciamo, più grandi, di strutture politiche presenti nel territorio. E quello che si sta facendo è si sta provando a costruire un discorso politico intorno alla tematica della violenza di genere sulle strade, ma non solo. Infatti uno degli elementi interessanti che secondo me è uscito è il fatto che dalle strade, ad esempio, è visibile anche la violenza che avviene nelle case. E quindi è venuta fuori questa idea di provare a bussare alle porte, di provare a far aprire le finestre, proprio per far entrare, diciamo, questa ondata di autodeterminazione, questa ondata, diciamo, di sicurezza collettiva che i nostri passi portano in giro, diciamo, nel quartiere, anche nelle case, che spesso sono luoghi, diciamo, privati in cui evidentemente non si può entrare, ed è dove purtroppo la violenza si sente di più, la violenza domestica. Abbiamo per questo, diciamo, questo spazio, aprire a questo spazio di discorso ci permette anche di entrare nel discorso della violenza domestica. Un altro elemento che volevo sottolineare è la possibilità della reazione, ovvero nel momento in cui si subisce violenza nelle strade, perché tutte la subiamo, questo è chiaro, tutte le persone che un po' diverse subiscono violenza nelle strade, è possibile reagire, e in qualche modo questo elemento della reazione attraverso la partecipazione, attraverso più corpi diversi nelle strade, è sicuramente un elemento importante che non va tralasciato all'interno, per esempio, di un percorso di uscita dalla violenza, ovvero strutturare evidentemente proprio un discorso che in cui non c'è solo la donna che subisce e denuncia la violenza, ma che sia in grado anche di reagire a questa e magari anche evitarla. Nel senso che noi partiamo anche da quello che è il nostro percorso, che è anche un percorso di sportello antiviolenza, in cui le donne vengono e ci raccontano le loro storie di violenza. A queste storie, cioè noi essenzialmente l'obiettivo dello sportello è invece forse è prevenire quelle storie, no? Quindi nella passeggiata abbiamo deciso di portare dei fischietti, che è solo un elemento simbolico da una parte, dall'altra può essere veramente uno strumento di autodifesa, perché è il momento in cui uno fischia, una donna fischia, si crea un allarme intorno allo spazio, evidentemente, e quindi c'è la possibilità di una reazione da altre persone, ma allo stesso tempo il fischietto crea disagio diciamo all'aggressore, perché chiaramente non è usuale. Il discorso per me è anche complesso, è tutto da costruire. Ieri è stato un bellissimo momento, anche se sotto la pioggia, è stato molto bello e colorato, c'è stata una passeggiata collettiva, anche se eravamo in poche, eravamo molto rumorose, le persone, molte donne del quartiere si sono affacciate alla finestra cercando di capire cosa fosse questa ondata, diciamo, colorata e anche molto rumorosa. Quello che abbiamo fatto era spiegare che cosa stavamo facendo e chiaramente invitare tutte a partecipare al nostro percorso, perché l'obiettivo che ci diamo chiaramente è quello della partecipazione più ampia possibile nel territorio, per far sì che il nostro discorso sia anche delle persone che vivono il territorio nelle case, nelle scuole, nei posti di lavoro, provando a costruire altre passeggiate collettive nel nostro territorio, ma non solo, cioè che magari divenga una pratica in cui le donne si appropriano nuovamente di uno spazio pubblico che purtroppo viene sottratto. Il prossimo appuntamento per costruire una nuova passeggiata, magari non sotto la pioggia, sarà lunedì 10 alle 18, sempre dalle Cagne Sciolte, via Assenza 137, per costruire una nuova passeggiata collettiva con nuovi contenuti, con nuovi sistemi di autodifesa o anche di attacco rispetto all'aggressione, il 16 febbraio, però è da definire, le cose che succederanno saranno da definire, quindi noi invitiamo tutte le persone, primariamente quelle che abitano vicino, che vivono nel nostro territorio, ma sicuramente chi vuole, a costruire con noi questo momento così importante di strada, di autodeterminazione e di risposta visibile alla violenza, una risposta che rompe il silenzio in cui ci vogliono mettere, diciamo, gli aggressori o chi in qualche modo si tiene in uno stato di violenza, e penso che questa è la nostra risposta e speriamo che, insomma, venga articolata e costruita da più persone possibili. In un rincon della barca sta hirviendo la tetera, a un lado pelando papa las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caboyaje y su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barran los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero. E ricordiamo che sempre dalle Cagne Sciolte in via Assenza 137 è partito il Cine Pioniere, tutti i martedì un ciclo di proiezioni sulla presenza delle donne nei mestieri del cinema, agli esordi dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura al montaggio in Europa e negli Stati Uniti. Quindi tutti i martedì dalle 18 Biostienze 137 Cine Pioniere. mano que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue el auta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. Sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, güey. E adesso diamo un aggiornamento che risale ad oggi. Ricordiamo, Chiara è stata arrestata insieme a Claudio Mattia Nicolò dal 9 dicembre dal carcere delle Vallette. Sono stati poi trasferiti Claudia Chiara si trova attualmente a Rebibbia. È uscita una sua lettera del 20 gennaio che potete leggere e trovare sul web, e c'è un aggiornamento di oggi. Chiara è di nuovo in isolamento, i colloqui sono sbloccati. Dopo un paio di giorni passati in compagnia delle altre 3 detenute della sezione di alta sorveglianza di Rebibbia, ieri pomeriggio Chiara è stata portata in isolamento. Non si sa se per disposizione dell'amministrazione penitenziaria o se per disposizione della procura torinese. Quindi è di nuovo da sola, con il brindo chiuso tutto il giorno, e questa mattina le è stata proposta una nuova modalità per usufruire dell'ora d'aria. Da sola, ovviamente, e in una specie di cubicolo recintato, e solo per un'ora al mattino e una al pomeriggio. Lei ha declinato l'offerta. Per contro, però, è di ieri la notizia che la procura ha sbloccato i colloqui dei 4 arrestati del 9 dicembre, anche se solo con i familiari stretti. Já vem vindo arrastando. Shot. I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. Mandiamo adesso una registrazione della campagna che stanno portando avanti Mujeres Libres e Collettiva XXX rispetto appunto a quello che sta succedendo in Spagna sulla questione, sulla legge restrittiva che si vuole fare sull'aborto. Durante questa campagna appunto mi pare il 1 febbraio sono state attaccate praticamente delle scritte, delle specie di fumetti, e sono state fatte parlare, diciamo, delle opere d'arte. Questa in particolare è la ragazza con l'orecchino di perla che ci dice: meno obiettori, più consultori. Nel 2014 i collettivi XXX e Mujeres Libres oggi complici con le donne spagnole che protestano a Madrid contro la proposta di legge Gallardón. Un progetto di legge che prevede l'abolizione della possibilità per le donne di abortire liberamente in caso di gravidanza indesiderata o di malformazioni del feto. Anche in Italia la situazione sta diventando simile a quella spagnola, poiché la massiccia diffusione di medici obiettori di coscienza che si rifiutano di operare interruzioni volontarie di gravidanza sta rendendo sempre più difficili per le donne la scelta di abortire. Oggi, 1 febbraio, una delle giornate di mobilitazione nazionale lanciate dalle realtà femministe spagnole, a Bologna, in via Indipendenza, i collettivi hanno dato voce ai personaggi dei dipinti di Vermeer, in mostra nei prossimi giorni in città, facendo comparire sui cartelloni pubblicitari dei balloon, che esprimono chiaramente la volontà di tutelare allo stesso modo il diritto ad abortire in tutta Europa. Oggi la ragazza con l'orecchino di perla prende parola. E il messaggio che lancia è chiaro: come tutte le altre donne europee, sono libera di decidere come vivere la mia vita. Dalla Spagna a tutta l'Europa, passando per Bologna. Quindi sì all'aborto libero. Un diritto che deve essere garantito a tutte le donne in tutta Europa. Per questo si fanno parlare le opere d'arte e la ragazza con l'orecchino di perla dice: contro chi mi vuole soggetto muto e statico parlo. Mi dichiaro complice delle donne spagnole opponendomi al progetto di legge Gallardón. Limitare o negare il diritto all'aborto significa ridurci a incubatrici di figli. Non mi limito a indossare un orecchino, sono libera di decidere come vivere la mia vita. Per questo oggi, in via Indipendenza, avete visto i miei pensieri materializzarsi sui manifesti della mostra che mi ha portato a Bologna. Toglierci ogni scelta ci obbliga ad abortire clandestinamente, negando il nostro diritto alla salute e all'autodeterminazione. Anche in Italia la situazione sta diventando molto simile a quella spagnola, poiché la massiccia diffusione di medici obiettori di coscienza che si rifiutano di operare interruzione volontaria di gravidanza sta rendendo sempre più difficile per le donne la scelta di abortire. Oggi sono al fianco dei collettivi Mujeres Libres e la collettiva XXX, perché voglio che l'aborto diventi un diritto tutelato allo stesso modo in tutta Europa. E noi condividiamo l'idea della ragazza con l'orecchino di perla. For the taking, I'm happy at last. Maybe I dreams, but he seems golden as a crown. A little sleeping bee told me I will walk with my feet off the ground. When my one true love I has found. That was just wonderful, Barbara. Albert Decker said to me, do you remember the first time you were ever on television? This is your first television show, isn't it? This is so exciting. I just can't tell you, all these people and cameras and lights and people. Oh. Primo gennaio, la giornata in cui appunto le femministe italiane hanno appoggiato la lotta delle femministe spagnole, ci sono state variazioni. Questa di cui vi abbiamo parlato adesso si è svolta appunto a Bologna in occasione di una mostra di artisti. Un'altra c'è stata nel Collegio di Spagna, e questo ovviamente non è un caso, e l'ha curata il collettivo appunto XXX. Da un po' di notti non riusciamo a dormire a causa di quanto sta succedendo alle donne spagnole. D'altronde, svegliarsi nel bel mezzo del Medioevo, ripristinato dalla legge Gallardón, non è piacevole per nessuna. Questa proposta di legge riporta le donne spagnole ai ferri da maglia o alla sola funzione riproduttiva. Abbiamo preferito dunque non dormire, ma essere complici delle donne e delle femministe spagnole e ricordare che contraccezione e interruzione volontaria di gravidanza devono essere un diritto praticabile da tutte le donne. Non siamo entrate in San Petronio per caso. Avevamo uno striscione con una scritta precisa: se la Chiesa occupa i consultori, le donne invadono le chiese. In Italia, infatti, l'obiezione di coscienza, a causa di cattolici e pro-life, ha raggiunto percentuali troppo alte per garantire l'applicazione della legge 194. Non abbiamo protestato alle sedi del PD bolognese per caso, abbiamo attaccato dei manifesti che recitavano: l'interruzione volontaria di gravidanza è un diritto delle donne, perché le parlamentari europee del PD, tutte, si sono astenute dal votare il Report of Sexual and Reproductive Health Rights, firmato dall'europarlamentare Edith Estrella, determinando così la sua bocciatura. Peter Daniels, my pianist, yes. He has a studio that he just got, and it's a big, it's a rehearsal studio, you know, it's very spooky, and it only has a big baby grand piano, and I have a folding bed that I can't take around, and it's in his studio. Really? I keep it in the stall shower. So you... Right, Peter? You sort of sleep all around town. Well, I don't sleep around now. No, no, no, I understand. I understand. You just sleep around town. Miss Marmalstein! Miss Marmalstein. All the girls get called by their first names right away. They get cozy into May. Do you know what I mean? Nobody calls me, hey baby doll. Miss Marmalstein. Or honey dear. Miss Marmalstein. Or sweetie pie. Miss Marmalstein. Even my first name would be preferable. Though it's terrible, it might be better, it's Yetta. Or perhaps my second name, that's Tessie. Spelled T-E-S-S-Y-E. But no, no, it's always Miss Marmalstein. Miss Marmalstein? You think at least Miss M they could try. Miss Marmalstein? Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Oh, I could die. I'm a very willing secretary. Enjoy my work as my employer will corroborate. Except for one disappointment, one fly in the ointment. It's great, I mean simply great. But the aggravation of my situation, I might as well get it off my chest, is the Trump appellation. Pardon the big words I apply, but I was an English major at CCNY. The Trump appellation with which I am persistently addressed. Persistently, perpetually, continually, inevitably addressed. Believe me, it could drive a person positively psychosomatic. Why is it always Miss Marmalstein? Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Other girls get called by their nicknames right away. Slightly naughty or risque, do you know what I mean? Nobody calls me Coochie Coo or Bubbla. Miss Marmalstein. Or Passion Pie. Even Hey There Babe, though not respectable, ain't so objectable. It's kind of crummy, but chummy. Of course, if I got married, that would do it. So where's the lucky guy? Huh? Till then, it still is Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Every day I get more and more fast. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. Miss Marmalstein. You know, one of the biggest thrills for a guy who's been around this business as long as I have is the advent of a bright new young star. Several weeks ago, a very talented 19-year-old newcomer named Barbara Streisand did a comedy song in the Broadway musical I Can Get It For You Wholesale, and she stopped the show cold. Also, in addition to that, she appears nightly at the Bonsoir and kills the people there. But I was delighted to learn during rehearsals this week that she is equally effective in straight numbers as she is when she's being zany. Keeping out of mischief now. Really I'm in love. Questa è Barbara Streisand, ma noi vi ricordiamo che martedì prossimo su Feministenzia ci sarà la nostra amica Iva and the Toy George, che manderà della musica e ci parlerà un po' di lei, e poi arriverà anche il Maina, di cui abbiamo sentito un live proprio all'inizio della trasmissione. In advance, they can break up our romance, living up to all my vows, 'cause I'm keeping out of mischief now, out of mischief now. I'm in love. You hold my desire. All the world can see you are the one for me. I have told them in advance. Torniamo un po' sulla questione spagnola e nel dettaglio su questa legge. E ce ne parla Beatriz Preciado in un articolo pubblicato su Liberación lo scorso 17 gennaio. E lo scorso 20 dicembre il governo di Mariano Rajoy ha approvato in Spagna il progetto preliminare per la nuova legge sull'aborto, che diventerà, insieme a quella irlandese, la più restrittiva d'Europa. La nuova legge di protezione della vita del concepito e dei diritti della donna incinta contempla unicamente due casi di aborto legale: il rischio per la salute fisica e psichica della madre e lo stupro. But that's not music, not what I call music. No, sir. Music is a lot of men and a lot of tales making lots of noise like a lot of females. Music is a lot of folks in a big dark hole where they really don't want to be at all, with a lot of chairs and a lot of airs and a lot of furs and diamonds. Music is silly. I hate music. But I like to sing. Nobody's heart belongs to me. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, repay us for what we've done. Where you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, bang, bang, we shoot him down. Give him drugs and give him candy, anything, oh, to make him think he's happy. And he won't ever come for us, he won't ever come. But if he does, and if there's no one else around. Continuiamo a leggere l'articolo di Beatrice Preciado, appunto, che ci parla della legge del governo Rajoy sull'aborto, e dice: il rischio della madre inoltre dovrà essere certificato da un medico e da uno psichiatra e dovrà essere oggetto di un processo collettivo di deliberazione. Quindi, alla faccia dell'autodeterminazione femminile, a quanto pare dovrà essere un medico, uno psichiatra, ovviamente uomini, a decidere, appunto, se una donna ha il diritto o meno di abortire, quindi di decidere del proprio corpo. Questo progetto di legge ha suscitato ovviamente l'indignazione dei gruppi femministi, ma anche l'opposizione dei gruppi di psichiatri che si rifiutano di partecipare a un tale processo e di patologizzare le donne in gravidanza. Le politiche dell'utero, come la censura o la restrizione della libertà di manifestazione, sono un buon indicatore delle derive nazionaliste e totalitarie. In un contesto infatti di crisi economica e politica dello Stato spagnolo, di fronte alla riorganizzazione del territorio e di anatomia nazionale, il governo cerca di recuperare l'utero come luogo biopolitico per stabilire una nuova sovranità nazionale. Sperano, possedendo l'utero, di mantenere i vecchi confini dello Stato-nazione. Questo progetto preliminare di legge è anche una risposta alla legalizzazione del matrimonio omosessuale avanzata durante il mandato del precedente governo socialista. Di fronte alla messa in discussione del modello tradizionale di famiglia eterosessuale, il governo Rajoy, vicino al gruppo integralista cattolico dell'Opus Dei, vuole occupare il corpo femminile come ultimo luogo in cui non solo si gioca la riproduzione nazionale, ma anche l'egemonia maschile. Se la storia biopolitica potesse essere narrata cinematograficamente, diremmo che il film che sta girando, il Pepe, è un fibrile porno gore in cui il presidente Rajoy e il suo ministro della giustizia, Ruiz Gallardón, piantano una bandiera spagnola in ogni utero dello Stato-nazione. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms. bang, bang, bang, he shoots you down. Quindi facciamo i complimenti appunto al governo spagnolo, che vuole piantare, come ci dice qui la scrittrice, una bandiera della Spagna in ogni utero dello Stato. Invitiamo quindi il ministro e il capo dello Stato a fare una partita a risico qui a Radio Default. Questa è Alice Coltrane e la dedichiamo a Paolo. Andiamo a leggere l'articolo. Sperano dunque Gallardon e company di, possedendo l'utero, di mantenere i vecchi confini dello Stato-nazione in decomposizione. Questo progetto, questa parte l'abbiamo già letta. Allora, è questo il messaggio che il governo Rajoy invia a tutte le donne del paese: il tuo utero è territorio dello Stato spagnolo, terreno e fermento della sovranità catto-nazionalista. Esisti solo come madre, apri le gambe, sii terreno di inseminazione, riproduci la Spagna. Se la legge che propone il PP entrerà in vigore, le spagnole si sveglieranno con il Consiglio dei Ministri e con la Conferenza Episcopale nel loro endometrio. Come corpo nato con un utero, chiudo le gambe al catto nazionalismo. Dico a Rajoy e a Varela che non metteranno piede nel mio utero. Non ho mai procreato né mai procreerò al servizio della politica nazionalista spagnola. Da questa modesta tribuna invito tutti i corpi a fare uno sciopero dell'utero. Imponiamoci come cittadini a pieno titolo, non come uteri riproduttivi. Non soltanto attraverso l'astinenza e l'omosessualità, ma anche con la masturbazione, la sodomia, il feticismo, la coprofagia, la zoofilia e l'aborto. Non lasciamo che nemmeno una goccia di sperma catto nazionalista penetri nel nostro utero. Non partoriamo per conto del PP, né per le parrocchie della Conferenza Episcopale. Facciamo questo sciopero come faremo il più matriottico dei gesti, per farla finita con la finzione nazionale e iniziare a immaginare una comunità di vita post-stato-nazione, che non abbia alla sua base la possibilità della violenza e l'espropriazione dell'utero. Quindi la scrittrice Beatriz Preciado ci invita a fare uno sciopero dell'utero e manderemo a breve anche un contributo di una compagna, il suo nome è Rachele Mussolini, che diciamo ha qualche collegamento con questa storia dello Stato-Nazione e di come viene concepita la donna e il suo corpo. Allora, questo contributo lo dedichiamo a F0, che ci ha, diciamo, solertemente segnalato appunto questo stralcio di un'intervista appunto che Rachele Mussolini ha concesso, credo, per Rai Storia. Guardate, io in casa mia avevo 4-5 bombe che le tenevo, bombette piccole, che quando mio marito venne dalla guerra ne aveva portate, io le tenevo perché mi piacevano avere qualche cosa in casa. E quando venivano a fare le spedizioni in casa nostra, non ho cosa, perché dopo io le ho messe via, non avevo. Ma le bombe del COA io non posso sapere, perché io al giornale non ci andavo molto. Non crede che ci fosse molte bombe. Se non le spiace, signora, parliamo allora delle bombe che aveva in casa. Perché le teneva? Perché mi piaceva. A me mi piaceva, guardate, io sono stata cacciatrice. Quelle piccole bombe che erano belline, le ho messe in una scatola perché io ero sempre in mezzo. Mio marito, volte dire, era sempre presa dalla polizia. Non aveva nessuno che mi difendesse perché, sai, non erano tanti. E mi piaceva di avere qualche cosa in casa di difendere i miei bambini, non io, perché io non ho avuto paura, ma le mie creature. La crisi del fascismo è insieme politica e organizzativa. Ricordiamo a tutti che questa non è fiction, ma è realtà, e questa è Rachele Mussolini che appunto ci spiega il suo amore per le bombette. Thank you. E concludiamo sempre sulla giornata che c'è stata in solidarietà alle donne che si battono contro la legge Gaia-Don. Viva le donne che hanno raccontato la sorellanza attivista, militante, sotto la pioggia, il caldo e il freddo, a segnare una presenza sui ponti, manifesti, pareti, mura, per moltiplicare quella voce contro all'infinito, perché siamo una, due, tre, e siamo uno, e due, tre, e siamo a raccontarci in una dialettica costante, senza pretese di autoritarismo l'un sull'altra, senza morali che si ricordano certamente il mio, perché di questo è fatto il rispetto per l'autodeterminazione. Siamo tanti e tante diversi ed è bello che si lotti affinché tutti e tutte possiamo decidere in autonomia. L'hashtag io decido, e non è sicuramente finita qui. Questo era un commento da Batto i Muri, e adesso chiudiamo la trasmissione dando i prossimi appuntamenti. Questo sabato 8 febbraio ci sarà il concerto di Radio Default in diretta dalle strade al Palazzetto dello Sport di Genzano. Potete seguire tutti gli aggiornamenti e le notizie sul sito www.radiodefault.it. E ricordiamo l'assemblea pubblica il 10 febbraio alle ore 19 dalle Cagne Sciolte in via Ostiense 137, e vi diamo appuntamento a martedì prossimo, martedì 11 alle ore 21, che ci sarà una grande ospite, Iva and the Toy Giorgio. Meglio buttarsi a fiume trallalla, che fa sta vita qua. Meglio buttarsi a fiume trallalla, che anna a lavora. Bella Roma, per chi c'ha i soldi, padroni di casa sempre più ingordi, fami buffi con carta girone per potesse pagare la pigione. Siamo stressati, accatastati, compresi, sfruttati, sottopagati. I tempi di mio nonno mi sa che sono tornati. Ma almeno mio nonno c'aveva l'osteria, se beveva la foglietta il dolore andava via. I sordi ce l'aveva, ma stava in compagnia. Dopo per San Vittorio poi c'avevano un talento, quando che il vino era buono si suonava a cor contento. Meglio buttarsi a fiume trallalla, che fa sta vita qua. Meglio buttarsi a fiume trallalla,